ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo quarto. Il dottor Amati. Suor Maria degli Angioli. In convento. Né da un giorno né da un mese, quando il dottor Antonio Amati si appressava al balcone della sua grande stanza da studio, vedeva apparire fra le vecchie tende ingiallite del balcone dirimpetto al suo, rispondente nel maggior cortile del palazzo Rossi già Cavalcanti, quel delicato volto pensoso di fanciulla. Erano corsi 2 anni dal giorno in cui uno dei più giovani, ma anche dei più illustri medici napoletani, era venuto a prender dimora colà, solo, con un servo e una donna di governo, ma portandosi dietro tutta la folla della sua clientela vecchia e nuova, mettendo per quelle scale ampie, ma un po' tetre, un andirivieni di gente affaccendata e preoccupata. E dal primo giorno, dietro i cristalli della sua stanza da studio, egli aveva scorto di rimpetto per un minuto quell'ovale puro, quella carnagione tenue che si colorava di roseo appena appena, e quegli occhi tra fieri e dolci, il cui sguardo ricercava il cuore per la fierezza e per la dolcezza. Subito aveva visto tutto questo il dottor Antonio Amati, malgrado che i vetri del balcone dirimpetto sembrassero appannati dalla vecchiaia e malgrado la brevità dell'apparizione. Egli era un rapido osservatore e in verità molta parte della sua abilità medica veniva da questo colpo d'occhio immediato, da questa intuizione vivissima, giusta e profonda. Un cuore senza sole, aveva mormorato fra sé, ritornando a riporre i suoi grossi volumi scientifici nelle scansie severe di quercia scolpita. Né si era meravigliato quando la portinaia del Palazzo Rossi, consultandolo umilmente sotto l'androne, prima che gli salisse in carrozza per il suo solito giro di visite pomeridiane, narrandogli le cause di un malore febbrile che le aveva ingrossata la milza, gli dicesse così, fra un profluvio di altre chiacchiere, che quell'anima di Dio, dirimpetto al balcone del dottore, era la marchesina Bianca Maria Cavalcanti, una signorina assai nobile, ma adesso assai decaduta, povera figliuola, non per i peccati suoi. Ma forse si fa monaca, aveva concluso la portinaia. Cuore senza sole, aveva pensato nuovamente andandosene Antonio Amati, dopo aver prescritto una ricetta alla verbosa portinaia inferma. Ma non lui aveva tempo da far frasi o da pensare varie volte in una giornata alle fanciulle aristocratiche che discendono per mala fortuna o per i peccati dei genitori alla tristezza e alla miseria. E mai come in quel giorno egli aveva inteso l'incubo della sua professione. Bianca Maria non compariva. «Ella è ammalata», pensò fra sé fugacemente. E supposto questo, subito se ne convinse come se qualcuno gli avesse dato la notizia sicura o se l'avesse vista egli stesso inferma. Era ammalata. E immediatamente pensò che bisognava soccorrerla con quell'istinto di salvataggio che è uno dei segreti dei grandi medici. Cercò un minuto, ma subito il suo spirito rientrò nella realtà della vita e disse che era una follia occuparsi di una persona che non conosceva e che probabilmente non voleva saperne di lui. Se avessero bisogno della sua opera, lo avrebbero chiamato in casa Cavalcanti. Però, in tutto questo, egli era certo che Bianca Maria era ammalata. In fretta e furia egli fece colazione, dando ordine al suo cocchiere di preparare la carrozza. All'una doveva andare all'ospedale. La giornata si faceva sempre più sciroccale, con un alito fetido di umidità. Egli uscì presto, spinto dall'ora, e fu nella scala, fra la penombra, che incontrò Bianca Maria con la cameriera Margherita che scendevano anch'esse. «Dunque non è ammalata», pensò il dottore. Ma con l'occhio acuto dell'osservatore a cui il più fugace sintomo dice la verità, egli vide che l'andatura della fanciulla era assai incerta. Il volto che ella levò verso di lui, salutando, era così intensamente pallido che, di nuovo, la fibra medica vibrò in lui, con un desiderio immediato di salvare quella creatura sofferente. Mentre apriva lo sportello della carrozza per salirvi, una donna che sino allora aveva chiacchierato col portiere dell'ospedale gli si accostò per parlargli. Era una donna vestita di un nero vestito, di un nero scialle claustrale, con un fazzoletto di seta nera che le nascondeva il capo ed era legato sotto il mento, con un volto pallido e gli occhi neri di un colore opaco di carbone, gli occhi di chi vive nella penombra e nel silenzio. Ella parlava piano. «Vostra Eccellenza vorrebbe venire con me per una carità urgente?» «Ho da fare», borbottò il medico facendo atto di salire in carrozza. «È una persona che sta male, molto male», insistette la donna, ma senza levare la voce. «Tutte le persone che debbo vedere stanno male. E qui vicino, Eccellenza, nel monastero delle Sacramentiste. Mi hanno mandata all'ospedale per trovare un medico. Non posso tornare senza medico. La persona sta assai male». «Sopra vi è ancora il dottor Caramanna. Cercate lui», ribatté Amati. «Sta male una monaca?» soggiunse poi. «No, signore. Le sacramentiste sono di clausura. Non possono chiamare gli uomini in convento», disse la servente con un movimento delle labbra. «È una persona che si è sentita male nel parlatorio delle monache. È fuori clausura». «Vengo io», disse subito Amati. «Sia lodato il Santissimo Sacramento. Oggi e sempre», rispose una fievolissima voce all'interno, come se uscisse da una cava profonda. «Vi è il medico?» «Sì, Suor Maria». «Bene». E un sospiro si udì fievole e lungo. Intanto il dottor Antonio Amati si era accostato alla fanciulla svenuta, a cui Margherita bagnava la fronte con un fazzoletto molle di aceto, mormorando sottovoce: «Figlia mia, figlia mia». Il dottore, che aveva posato il cappello in terra, si inginocchiò anche lui a esaminare più da presso il volto bianco della fanciulla svenuta. Le toccò il polso. Delicatamente le sollevò una palpebra. L'occhio era vitreo. «Da quanto tempo sta così?» domandò a voce bassa mentre le strofinava le mani gelide. «Da mezz'ora», rispose la vecchia. «Che le avete fatto?» «Solo l'aceto. Me l'hanno dato dalla ruota. Qui non vi è niente, è un monastero di clausura». «Ne soffre?» chiese lui, insistendo in altra forma. Stanotte ebbe un altro svenimento. L'ho trovata per terra nella sua stanza, ho chiamato il padrone». «È rinvenuta da sé stanotte?» «Sì». «Ha avuto paura?» «Non so, non credo», disse quella, esitando sempre. Parlavano a voce bassissima, mentre la servente si teneva ritta presso la grata, quasi a custodia. «Sta meglio?» chiese la fievolissima voce di dentro. «Lo stesso», rispose la servente. «Oddio!» esclamò la voce angosciata. Intanto il medico si era inclinato per udire meglio il respiro. Pareva pensoso e preoccupato, mentre Margherita lo guardava con la disperazione negli occhi. «Ha avuto paura mezz'ora fa qui dentro?» ricominciò a interrogare lui, mentre aveva delicatamente sollevata la testa di Bianca Maria e l'aveva appoggiata sul suo petto. «No, certamente no», sussurrò Margherita. «Io ero in chiesa, ma non ho udito quello che dicevano. Mi hanno chiamata». «Chi è quella monaca?» chiese lui, accennando alla grata. «È Suor Maria degli Angioli, la zia». Allora egli si levò e si accostò alla grata, mentre la servente faceva quel movimento delle labbra per indicare la clausura, quasi volesse opporsi alla conversazione del medico con la monaca. «Suor Maria», disse lui piano piano. «Oggi e sempre», disse la voce tenue, precipitosamente udendo la voce maschile. «Vostra nipote ha avuto qualche spavento?» Silenzio dall'altra parte. «Qualche cattiva nuova?» Sempre silenzio profondo. «Vi ha detto ella qualche cosa di spiacevole che le sia accaduto?» «Sì, sì», soffiò, tremando la voce. «Potete dirmi di che si tratta?» «No, no», riprese subito, tremando sempre quella di là. «Qualche cosa di assai doloroso? Non posso dirlo». «Bene, grazie», mormorò lui rialzandosi. «E come sta? Non le date niente?» chiese la voce della suora. «La portiamo a casa. Qui non si può farle niente». «Siamo povere monache», mormorò la suora. «Come la portate?» «In carrozza», disse lui brevemente. Poi, accostandosi a Margherita, egli riprese con voce bassa ed energica: «Ora vengo col mio cocchiere. Qui essa non può restare. Non posso darle nessun aiuto. La trasporteremo nella carrozza qui fuori e andremo a casa». «In questo stato?» chiese ella incerta. «Volete farla morire qui?» interruppe lui bruscamente. «Ma per carità, professore, scusate». Egli era già uscito, senza cappello, senza pastrano, attraversando il corridoio e la gelida corte. Ritornò dopo un minuto col suo cocchiere, a cui aveva evidentemente dato le sue istruzioni. Il dottore delicatamente sollevò il corpo della fanciulla svenuta da sotto le braccia, facendole appoggiare la testa sul suo petto, mentre il cocchiere la sollevava dai piedi. Era quasi rigida e pesante. Il cocchiere aveva il volto spaurito, gli pareva forse di trasportare una fanciulla morta, vestita di nero, attraverso quel nudo parlatorio, quel corridoio deserto, quel deserto e gelido cortile. E malgrado che, stando al servizio di un celebre medico, non fosse nuovo allo spettacolo del dolore fisico, quell'idea di trasportare un freddo corpo di fanciulla, un cadavere forse, gli dava tale ribrezzo da voltare altrove lo sguardo. Delicatamente, con la precauzione che si usa a non risvegliare dal lieve sonno un bimbo dormiente, i due uomini posarono la povera creatura esanime nella carrozza, appoggiandole la testa sulla spalliera e i piedi sul sedile di rimpetto. Ella non aveva dato segno di vita durante il trasporto. Le due rughe si approfondivano fra le sopracciglia del dottore Antonio Amati, rughe di volontà e di concentrazione, caricandone la fronte di preoccupazione. Pure gentilmente cercò di riappuntare le trecce nere della fanciulla che si erano disciolte e le erano cadute sul petto, ma non ci arrivava. Con le scarne mani tremanti, Margherita raccolse lei carezzevolmente le trecce della padrona e il dottore udiva che ella mormorava: «Figlia mia, figlia mia». Le tendine azzurre della carrozza erano state abbassate dal medico contro gli occhi indiscreti. La carrozza andava al passo e in quell'ombra azzurrastra e acquitrinosa, con quel passo lento, il carattere di convoglio funebre si conservava e risaltava più forte. Anzi, a un certo punto la carrozza si fermò. Dopo un poco il cocchiere aprì lo sportello senza neppur guardare il corpo della fanciulla e consegnò al dottore una boccettina chiusa ermeticamente che costui fece odorare alla svenuta. Subito un acuto odore di etere si diffuse nella carrozza che continuava ad andare pian piano. Bianca Maria non si riscosse. Dopo un poco, per solo segno di sensibilità, le palpebre chiuse le si arrossirono e grosse lacrime le sgorgarono fra le ciglia, rotolarono sulle guance e si disfecero sul collo. Il medico non distoglieva un momento il suo sguardo da quel viso, mentre teneva fra le sue la mano di Bianca Maria. Piangeva ella, sempre immersa nello svenimento, senza dare altro segno di vita, come se, nella mancanza di sensibilità, ancora la sensibilità del dolore le rimanesse, come se nella perdita di ogni memoria sopravvivesse ancora un ricordo angoscioso, uno solo, quello, e non rinveniva. Quando giunsero nel cortile del Palazzo Rossi, appena aperto lo sportello, un mormorio, un rumorio nacque. Crebbe, impossibile dominarsi. Vicino allo sportello la portinaia esclamava e strillava, quasi che la fanciulla fosse morta. Tutte le finestre che davano sul cortile, tutte le porte che davano sul pianerottolo si erano schiuse. E al vedere entrare dalla carrozza la povera creatura esanime, bianca, vestita di nero, con le trecce pendenti, strascicanti, accompagnata dal medico che invano cercava di imporre silenzio, il gridio di sorpresa, di compassione cresceva, salendo per l'aria grave. Sul pianerottolo del primo piano era uscita Gelsomina, la nutrice di Agnesina Fragalà, tenendo nelle braccia la bella creaturina già florida. E dietro era apparsa anche la madre felice, Luisella Fragalà, vestita da uscire col cappellino in testa. «Poveretta!» mormorava Luisella Fragalà, con una compassione che aveva un senso più acuto, più profondo. Sollevando la tenda pesante di broccato giallo, dietro il doppio cristallo della sua finestra, anche al primo piano era comparsa la scialba faccia della signora Parascandolo, la moglie del ricchissimo usuraio che aveva perduto tutti i suoi figli. Ella usciva raramente, chiusa nel suo magnifico appartamento che era pieno zeppo di ricchi mobili, tristi e inutili, poiché ella non riceveva nessuno da che le erano morti i figliuoli. Solo ella compariva ogni tanto dietro i cristalli, appoggiandovi la faccia scolorita, guardandosi intorno, con l'aria di dolente ebetismo che le era divenuta naturale. Per vedere Bianca Maria portata in su in quel modo, la povera donna cui nulla più arrivava a scuotere aveva aperto i cristalli e la sua voce si univa al crescente mormorio, esclamando come un'invocazione, una preghiera: «Gesù, Gesù, Gesù!» Ma una forte scampanellata risuonò per tutto l'appartamento. Un passo vibrato si udì e il marchese di Formosa entrò. Parve non vedesse che la figliuola distesa sul letto e cominciò a baciarle la mano, la fronte, parlando forte, angosciandosi. Figlia mia buona, figlia mia, che ti senti? Rispondi a tuo padre. Bianca, Bianca, Bianca, rispondi. Dove hai il male? Come ti è venuto, creaturina mia, viscere mie, corona della mia testa? Rispondi, rispondi. È tuo padre che ti chiama. Sentimi, sentimi, dimmi che hai. Io ti guarisco, buona figlia mia. Al marchese il dottore fece cenno di tacere. Formosa si chinò sul letto della figliuola e le toccò la fronte con la mano come se la benedicesse. Ella ebbe un battimento di palpebre e sorrise. «Vostra figlia ha avuto un deliquio lucido, una delle forme più rare di deliquio», disse il dottore a bassa voce. «Lucido?» chiese il marchese con una strana voce. «Sì, vedeva e udiva tutto». E una sensibilità portata alla sua massima raffinatezza. Don Carlo Cavalcanti, la cui faccia si era stravolta, si chinò sul letto e domandò: «Che hai visto? Dimmi, che hai visto?» La figliuola non rispose, ma guardò il padre con una sorpresa così dolorosa che il medico, tornando, se ne accorse e aggrottò le sopracciglia. Non aveva udito che cosa avesse chiesto il padre alla figliuola, ma intese di nuovo sorgere il gran segreto della famiglia, vedendo la tenera e dolente occhiata di Bianca Maria. «Non le domandate nulla», disse bruscamente il dottore a Don Carlo Cavalcanti. Il vecchio patrizio represse un moto di sdegno. Covava la fronte della sua figliuola con lo sguardo, come se ne volesse strappare magneticamente un segreto. Ella aveva abbassato le palpebre, ma il viso rivelava sofferenza. Poi guardò il medico quasi gli cercasse aiuto. «Volete qualche cosa?» domandò lui. «Vi è un uomo presso la mia porta. Fatelo andar via», pronunziò ella sottovoce paurosamente. Il dottore trasalì. Trasalì Don Carlo Cavalcanti. Infatti, fuori la porta, in quella sua eterna, miserevole attitudine di attesa, sporco, lacero, con la barba incolta e le guance smunte, malamente tinte di un sangue morboso a strie, vi era Pasqualino De Feo. L'assistito. Il marchese lo aveva lasciato nel salone, ma egli era scivolato sino alla soglia della stanza di Bianca Maria, con quel suo passo timido e silenzioso di straccione che teme di essere scacciato da tutti i posti. «Chi è quell'uomo?» disse il dottore con quel suo tono rude, accostandosi alla porta come per scacciarlo. «È un amico», rispose il marchese con un vago gesto di imbarazzo, affrettandosi ad accorrere. «Mandatelo via», disse il medico duramente. Fuori la porta, il marchese e Don Pasqualino parlottarono vivamente sottovoce. Bianca Maria aveva un'aria di attenzione, come se potesse udire quello che suo padre diceva di fuori. Poi a un tratto crollò il capo. Il dottore, che la guardava negli occhi, intuì il suo desiderio. «Volete che mandi via dalla casa quell'uomo?» «Lasciatelo», disse ella debolmente. «Farebbe dispiacere a mio padre». Ah, egli non sapeva nulla di nulla, il dottore. E già nel ritorno alla rude realtà si rimproverava quel romanzo oscuro e doloroso che entrava nella sua vita, ma lo avvinghiava un sentimento imperioso che egli credeva la forte curiosità scientifica. Le ore erano passate, scendeva la sera. Egli non aveva fatto nessuna delle sue visite e rimaneva in quella gelida stanza di fanciulla, nobile, povera e inferma, quasi non potesse più staccarsene. «Debbo andare», disse come fra sé. «Ma ritornerete?» chiese ella sottovoce. «Sì, rispose lui, risoluto a vincersi, a non tornare più. Ritornate. E la voce umile pregava, pregava. Sono qui accanto. Se soffrite, mandatemi a chiamare. Sì, sì, soggiunse, tranquillizzandosi all'idea della protezione. Addio, signorina. Addio, fece ella, marcatamente, staccando le due parole. Margherita lo accompagnava, ringraziandolo pian piano di aver salvato la sua padrona, ma egli era ridiventato l'energico e frettoloso uomo di sempre, nemico delle parole. «Dov'è il marchese?» volle sapere senz'altro. «Nel salone, professore». E ve lo accompagnò. Giusto, don Carlo Cavalcanti e Pasqualino De Feo passeggiavano su e giù taciturni. Era quasi notte. Pure il dottore coprì l'assistito di un'occhiata scrutatrice e diffidente. «Come sta Bianca?» chiese Formosa uscendo da un sogno. «Meglio ora», soggiunse con voce breve e fredda il dottore. «Ma è una fanciulla colpita prematuramente, nel morale e nel fisico, da uno squilibrio crescente. Se non le date sole, moto, aria, quiete e giocondità, vi può morire da un giorno all'altro». «Non dite così, dottore», gridò il padre sdegnato e addolorato. «Devo dirlo perché così è. La causa del suo male, di quello di oggi, mi è ignota. Non voglio saperla. Ma ella è ammalata, capite? Ammalata. Ci vuole sole e pace. Pace e sole. Se volete un medico, io sono sempre pronto, il mio mestiere. Ma la ricetta l'ho fatta. Mandate la fanciulla in campagna. Se rimane un altro anno in questa casa, vedendo solo voi e andando sempre al monastero, muore. Ve lo affermo io». E insisteva freddamente, come se quella verità dovesse essere proclamata in tutta la sua forza, come se volesse convincerne anche la ribelle anima sua. «Dottore, dottore», si lamentò Formosa cercando pietà. «È ammalata, muore, in campagna, in campagna. Buonasera, marchese». E se ne andò, quasi fuggendo. Il marchese e l'assistito, che non aveva detto verbo, ripresero la loro passeggiata taciturna. Ogni tanto Formosa sospirava profondamente. «Lo spirito che mi assiste», soffiò l'assistito. «Eh?» esclamò l'altro trasaltando. «Mi avverte che donna Bianca Maria ha avuto una visione celeste e che ve la comunicherà sotto simbolo. Voi che dite? È possibile? Questa grazia mi avrebbe concessa l'ente supremo? È possibile?» «Lo spirito non inganna», sentenziò l'assistito. È vero», mormorò Formosa con voce profonda, guardando nell'ombra con gli occhi stravolti. Teresa Saponangelo ha letto Il paese di Cuccagna di Matilde Serao, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.